Allora, da un lato abbiamo i danni a imprese e famiglie che cubano all'incirca 1 miliardo di euro, dall'altro i danni ovviamente, o meglio, le opere di messa in sicurezza dei territori. Per capirci, se piovesse ancora come quel 31 ottobre scorso, noi avremmo un'alluvione ancora più devastante in Veneto. E purtroppo queste opere sono valutate in circa 2 miliardi e mezzo di euro. Posso garantire che c'è un interesse da parte del governo di seguire questa partita. Lo stesso Presidente del Consiglio mi ha chiesto, mi ha anche cercato in più occasioni per capire quale sia l'entità di questa partita. Però altrettanto vero me lo lasci dire che il mio Veneto lascia sul tappeto a Roma, qualcuno dice in maniera pura sotto solo 8 miliardi e sono tanti di tasse, qualcun altro fa un conto molto più importante rispetto anche ad altre partite e dice che dei 17-18 miliardi di euro restano comunque per la quota di solidarietà, di sussidiarietà nazionale. Però io dico, se avessero dato a noi il 20% di risorse in più, come dichiara il ministro Tremonti, come è accaduto per alcune realtà del sud, noi veramente avremmo le maniglie d'oro oggi. Purtroppo non ce le abbiamo e oggi siamo a chiedere che ci sia un segnale. Ma guardi, c'è una perfetta intesa con il governo, con il presidente, con il ministro Tremonti, insomma con gli altri ministri, a iniziare da Bossi che poi ha portato fisicamente, ha accompagnato Berlusconi i giorni successivi all'alluvione nei territori. Ci sarà come unica partita la soluzione di cercare di identificare quota parte di questi 2 miliardi e mezzo di euro, quantomeno per un primo stralcio di opere all'interno, a mio avviso, dei fondi per gli investimenti, siano CIPE, siano altre categorie, ma comunque dobbiamo dare un segnale al Veneto. Cioè, lei ha ricordato bene che mettere in ginocchio quei territori, stiamo parlando delle province tra le più operose d'Italia, sto parlando di Vicenza, sto parlando di Padova, sto parlando di Verona, 327 comuni colpiti, 550.000 alluvionati, migliaia di imprese che hanno chiuso i battenti, lavoratori che hanno continuato a lavorare nel fango per ripulire le loro imprese per poter riaprire i battenti. A questi territori va dato un segnale, che è quello del federalismo, ma che è anche quello in questa fase di poter mettere in sicurezza, ad esempio, quei 30 argini che non ci sono più, sono letteralmente spariti, di fiumi che quando si ingrossano sono veramente fiumi importanti. Io ho l'impressione, e ne sono convinto fino in fondo, che siamo in buone mani, che sono le mani di Calderoli, di Bossi e di quello che sta giorno dopo giorno diventando questa grande riforma, questa grande rivoluzione copernicana. Io sono assolutamente fiducioso del fatto che passeranno anche gli altri decreti. Le dico anche di più che al di là dell'aspetto importantissimo, che è l'aspetto principale della fiscalità, di tutte queste nuove norme che vengono introdotte, la compartecipazione all'IVA, insomma, un po' tutto quello che lei sa meglio di me. C'è da dire una cosa importante, che questo è anche un grande cambiamento culturale. Questo paese finalmente ha imboccato la strada delle riforme del federalismo e io direi che si vedranno ancora altri risultati, non mi porrei proprio il problema.